Buonasera, ci siamo arrivati alla fine, grazie a Walter e alla sua abile regia, grazie alla vostra pazienza, grazie per tutti coloro che ci hanno seguito, l'appuntamento è ancora per martedì prossimo alla stessa ora. Sì, grazie anche a Gabriele che è venuto a darci una mano e ci sentiamo tra una settimana.